9 in punto. Ricordati! Mancano 4 giorni all'aumento dell'IVA. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Allora, oggi si apre a Piacenza il Festival del Diritto. Il tema di quest'anno è l'incertezza della democrazia. Nell'introduzione del responsabile scientifico del festival, che è Stefano Rodotà, vi si legge tra l'altro un riferimento a Bobbio. Come insegnava Bobbio, la democrazia è esercizio del potere in pubblico, ovvero un esercizio, tra le altre cose, un esercizio del potere non arbitrario. Allora, noi vogliamo in un certo modo affrontare la questione del tema di quest'anno, l'incertezza della democrazia, partendo però da una storia, una vicenda particolare e per me piuttosto assurda, insomma, quando mi è stata raccontata via mail da un ascoltatore. Allora, era Papa Paolo VI, moriva Jim Morrison quell'anno, Giovanni Leone diventava presidente e succedeva a Saragat. Gerardo Califano, buongiorno. Buongiorno. E in quell'anno iniziava il suo contenzioso tributario, che, se ho capito bene, si è chiuso l'anno scorso. Sì, esattamente. Per la verità, a me è arrivata la comunicazione raccomandata 12/07/2013. Ah, 12/06, quindi siamo freschissimi sostanzialmente. Sì. Sono 42 anni, insomma. E che cos'era? È un'imposta di registro, come l'ho inviato la fotocopia della decisione. Però sinceramente io non ho voglia proprio di deprimermi nell'andare a cercare all'origine che cos'era, perché io ne tengo più di una, un'altra che mi è arrivata nel 2011, due o tre che riguardavano un'imposta di successione, un'altra imposta INVIM e così via. Quindi io non ho voglia di deprimermi. L'INVIM, che probabilmente c'è un certo numero di ascoltatori che nemmeno si ricorda che cosa fosse l'INVIM. Non sanno nemmeno che significa. Sento una cosa, quindi non sa più nemmeno esattamente di che cosa si tratta. Ma come mai è durata così tanto, Califano, questa vicenda? Perché comunque io ho fatto i vari ricorsi, prima commissione tributaria di primo grado, secondo grado, e poi qualche condono, poi alla centrale, poi si chiama commissione provinciale, poi regionale. Io ho perso anche il conto oramai come si chiamano, non lo so più. Non sa più nemmeno i nomi. Tra l'altro c'era questa commissione tributaria centrale che, se non sbaglio, un decreto dell'anno scorso ha cercato di estinguere tutte le cause pendenti troppo vecchie, perché c'era roba dentro appunto di decine di anni. Io mi immagino questo luogo polveroso a Roma nel quale ci sono queste pratiche che risalgono a chissà quando, chissà, magari ce ne sarà anche qualcuna scritta a mano. E alla fine ha avuto ragione lei o ha avuto ragione Chiedo scusa se mi permetto di correggerla. In effetti la Commissione Centrale non sta più a Roma come stava una volta, ma ogni regione ha una Commissione Centrale, e quella che a me ha mandato la raccomandata è la Commissione Centrale sezione di Napoli, quindi secondo me non sta nemmeno più a Roma, penso, ma mi posso sbagliare. Sì, perché le hanno trasferite in quelle provinciali. Mi dica un po', chi ha avuto ragione alla fine? Ha avuto ragione alla lei? Alla fine fortunatamente la Commissione Centrale, meno male che esiste, ha dichiarato estinto il giudizio. Insomma, direi dopo 43 anni per un'imposta di registro, insomma. Ma era sua o era, che ne so, per esempio di suo padre? No? L'ho ereditata, perché io nel 1971 avevo appena 16 anni. Del 1955. Ecco qua. Piercamillo Davigo, buongiorno. Buongiorno. Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, già membro del pool di Mani Pulite, tra l'altro parteciperà a degli incontri, ha scritto dei libri sulla corruzione molto interessanti, parteciperà al Festival del Diritto naturalmente con un incontro, insomma. Allora, Davigo, che effetto le fa una storia di questo genere? Ma guardi, io nel 1971 ero all'università, quindi si immagini un po'. Certamente adesso io non so le vicende di questa di questa storia in particolare, però no, non per marcare la differenza di età, Davigo, però i miei genitori non erano nemmeno fidanzati nel 71, quindi si faccia un'idea. Prego. Le stavo dicendo, non conosco la vicenda in concreto, ma è comunque inaccettabile che un procedimento duri così tanto, anche se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non considera i giudizi tributari fra i procedimenti che danno luogo al risarcimento del danno. Però il problema è che purtroppo queste cose non riguardano soltanto la giustizia tributaria, ma riguardano anche quella ordinaria, non forse con periodi così lunghi, ma comunque certamente con periodi inaccettabili. Però nessuno si prova mai a chiedere perché succede. Cioè, non è che sono disgrazie o maledizioni divine queste cose, sono frutto di un sistema che non ce la fa perché non ce la può fare. E, vede, noi abbiamo tra pendenti e sopravvenuti, parlo della giustizia ordinaria adesso, non di quella tributaria, 9 milioni di processi. Siccome ogni processo ha almeno due parti, o in senso formale o comunque in senso sostanziale, nel processo penale c'è sempre una vittima almeno, a volte sono centinaia le vittime, ma comunque una vittima c'è. 9 milioni di processi significano almeno 18 milioni di persone in tribunale, un quarto del paese. È un dato che non ha equivalenti al mondo. Forse qualcosa, mi scusi, può reggere Davigo, Davigo, di questo genere. Davigo, la interrompo per rafforzare la cosa. Lei dice un quarto del paese, in realtà se togliamo i bambini, no, insomma, probabilmente siamo su percentuali ancora maggiori. Prego, comunque. Certo. Prego. Dicevo, nessun sistema processuale, nessun sistema ordinamentale può reggere un carico di questo genere. Allora, il problema è chiedersi, prima di tutto, perché c'è un carico di questo genere. Secondo, che cosa si può fare per risolvere questo problema. Allora, il problema perché c'è un carico di questo genere è semplicissimo, perché in Italia è tutelato molto più chi viola la legge rispetto a chi subisce una violazione della legge. Allora, guardiamola, per esempio, dal punto di vista dei processi civili, no? Perché mai in Italia un debitore dovrebbe pagare il suo creditore? Perché mai? Ammesso che il creditore riesca a provare il suo buon diritto in giudizio, non è detto che ci riesca, potrebbe aver perso le ricevute, potrebbe aver perso i documenti, eccetera, e otterrà quello che doveva avere subito, maggiorato di un tasso di interesse legale che di norma è più basso di quello di mercato, e solo se sono transazioni commerciali di un'ulteriore percentuale stabilita al diritto comunitario. Quindi per cominciare non pagare conviene. A meno che uno non sia un fornitore abituale, allora bisogna pagarlo perché altrimenti quello non fornisce più le cose. Ecco, probabilmente una gran parte del contenzioso deriva dal fatto che conviene violare la legge. Se io non pago il mio creditore e mi faccio fare causa. Quando io ero un bambino, la minaccia che faceva chi si comportava bene e chi si comportava male era ti faccio causa. Adesso la minaccia che fa chi si comporta male e chi si comporta bene è fammi causa. E il risultato sono 9 milioni di processi. Allora, voglio girarle un'altra domanda. Intanto saluto Alessandro De Nicola, docente alla Bocconi di Comparative Business and European Law, è presidente, ancora presidente della Adam Smith Society. De Nicola? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e benvenuto, e avvocato naturalmente, insomma, perché di diritto parliamo. Ma io mi chiedo, Davigo, non c'è anche una sorta di ruolo dello Stato, no? in questa violazione del diritto, che sembra quasi un paradosso, però è una mia, come dire, una mia riflessione, una domanda che mi faccio, insomma, di fronte a una vicenda come quella che abbiamo appena ascoltato del signor Califano, insomma, come si può pensare che se lo Stato per primo, no, comportarsi in maniera non corretta, perché 42 anni per un giudizio è un comportamento scorretto, al di là della questione concreta, del numero di processi, tutto quello che ci vogliamo raccontare, può venire la tentazione di dire ragazzi, però lo Stato è il primo che si comporta in questo modo. Davigo? Ma guardi, intanto io trovo curioso questa distinzione tra lo Stato e i cittadini. I giuristi definiscono lo Stato l'organizzazione di un popolo su un territorio, il popolo insieme ai cittadini, lo Stato siamo tutti noi. Non è che si possono fare queste dicotomie. Allora, se il sistema è fatto così, dobbiamo chiederci come fare a cambiare questo sistema. Perché poi non è che le leggi ci arrivano per maledizione divina un'altra volta. Le leggi sono votate da parlamenti che eleggiamo noi. Quindi non è che uno si può chiamare fuori dicendo lo Stato per primo non fa le cose, quindi io ho diritto di violare la legge. Intanto, proprio perché ci sono tante persone che violano la legge, succedono queste cose. Io le stavo dicendo prima qual è la ragione principale del problema, poi ce ne sono un'infinità di altre, ma la ragione principale è il numero di procedimenti. Allora bisogna ridurre il numero di procedimenti, che è facile, è una delle cose più facili al mondo. Basta colpire duramente chi ha torto e resiste indebitamente in giudizio. Così si toglie l'interesse a comportarsi male, no? Cioè colpire le tattiche dilatorie durante i procedimenti. Le tattiche dilatorie, ma in generale chi fa causa o chi resiste in giudizio sapendo di avere torto. Perché guardi che ci sono casi dubbi, ma nella maggior parte dei casi è assolutamente chiaro chi ha ragione e chi ha torto fin dall'inizio. Dopodiché è ovvio che ci sono comportamenti dilatori che dovrebbero essere stroncati. Così come nel penale, per ridurre il numero sterminato di procedimenti che abbiamo, basterebbe ridurre il numero delle fattispecie penali. È venuto in Italia il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani e nessuno ha saputo dirgli quante sono le fattispecie penali in Italia. Tante ce ne sono. È meravigliosa questa cosa. No, meravigliosa se si fa per dire, naturalmente. Insomma, però. Vede, probabilmente anche qui, per correre dietro a paure dell'opinione pubblica, tra l'altro artatamente fatte sorgere, faccio una breve digressione rispetto alla questione, ma è necessario per chiarire quello che sto dicendo. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani è convinta di vivere in un paese insicuro, perché per anni è stato detto loro che questo è un paese insicuro, tant'è che ci sono i soldati per le strade, no? Nell'operazione Città Sicure. Se lei va in Francia o in Gran Bretagna, nessuno viene in mente di mettere i soldati per le strade. Bene, noi abbiamo meno omicidi riferiti a 100.000 abitanti di quanti ne hanno la Francia o la Gran Bretagna. Quindi non è affatto un paese insicuro l'Italia, non lo è affatto. Però, dopo aver suscitato questo timore diffuso nella cittadinanza, si continuano a introdurre fattispecie penali, convinti in questo modo di tranquillizzare l'opinione pubblica. Non si tranquillizza un accidente niente, perché ci fanno fare milioni di processi inutili e qualche volta ci sono delle cose del poco stravaganti. Pensi un po', qualche anno fa c'era un disegno di legge, che per fortuna non è stato approvato, che prevedeva di punire con una contravvenzione il cliente e la prostituta che negoziassero in luogo pubblico. Ora, dato il numero di prostitute e il numero di clienti, sarebbero state migliaia, forse decine di migliaia di processi, nessuno dei quali sarebbe concluso con condanna, perché salvo che confessino, come lo si prova? Tra l'altro... o hai la foto, l'intercettazione foto, ambientale perché di tutti. Sono fermato a chiedere un'informazione. Certo. E che cosa gli si risponde? Allora, Alessandro De Nicola, lei che ci dice dopo aver sentito la storia, dopo aver sentito quello che dice Davigo? Che il dottor Davigo ha sicuramente ragione, però ci sono anche altri elementi che influiscono. Uno degli elementi che influisce è sicuramente l'organizzazione del sistema giudiziario, basta vedere la fatica che si fa per cercare di chiudere un po' di sedi di tribunali completamente inutili che risalgono ai Savoia e che quindi coprivano il Piemonte quando il Piemonte era un regno e quindi c'era un tribunale in ogni cittadina. Naturalmente non è un problema solo del Piemonte, è un problema di tutta l'Italia. Le resistenze corporative sono notevolissime, diciamo c'è un'insana alleanza tra enti locali, avvocati e ogni genere di lobby che si sente colpita, che con la scusa del diritto costituzionale alla difesa sostanzialmente impedisce che questo diritto venga esercitato, perché rende l'intero sistema giudiziario completamente inefficiente. Quindi il problema esiste, c'è un problema di scarsa meritocrazia all'interno del sistema della giustizia. Non è che all'interno del sistema della giustizia non solo i magistrati, ma tutti quelli che operano all'interno del sistema della giustizia, i cancellieri, chiunque sia sottoposto a un sistema meritocratico per il quale chi lavora meglio, chi lavora di più e chi lavora meglio viene premiato, chi lavora male e chi lavora meno viene invece sanzionato. Questo non esiste, avviene tutto per anzianità, sì, adesso è previsto che i magistrati ogni 4 anni passino una sorta di pagella che passa il 98% dei magistrati, ma per il resto va avanti tutto quanto ad anzianità. La responsabilità, la innegabile che non c'è quando si dice lo Stato opera male e così via, poi quando si chiede il risarcimento del danno allo Stato, la beffa consiste nel fatto che il cittadino che chiede il risarcimento giustamente del danno allo Stato, che ci mette un secolo a far sì che possano essere protetti i diritti del cittadino, paga i soldi con le tasse che porta via i cittadini, quindi è una partita di giro niente affatto virtuosa. E questo succede perché se è lo Stato che risarcisce i cittadini ingiustamente colpiti dalla sua inefficienza, non altrettanto si può dire dei funzionari che fanno in modo che questo accada, perché la responsabilità è diffusa, non si sa mai di chi è colpa, non riesco a pensare a un solo procedimento disciplinare. Sono sicuro, anzi su questo accetto scommesse, che i 42 anni del nostro povero ascoltatore del processo tributario non hanno portato a nessuna sanzione disciplinare nei confronti di nessuno di coloro i quali hanno operato in questi 42 anni e hanno creato questo evidente disagio. Quindi è vero, c'è un problema di molte cause, perché si facilita in qualche modo, non c'è la class action, un'altra cosa che faciliterebbe, se ben introdotta, perché la class action può avere anche dei risvolti molto negativi, ma se ben introdotta la class action riuscirebbe a far sì che invece che avere un milione di cause sulla responsabilità la RC Auto fatta in modo seriale, soprattutto nel meridione, perché poi ci sono anche alcune aree del paese che sono ben identificate, ad esempio l'RC Auto, il 90% delle cause che c'erano e che ci sono tutte concentrate in una regione italiana. Quindi, come al solito, i problemi sono abbastanza complessi, derivano molto spesso dal fatto che c'è non solo un'inefficienza dello Stato, ma una cultura che aiuta questa inefficienza. La cultura che aiuta questa inefficienza è data dalla irresponsabilità generalizzata, dalla mancanza di premialità, dalla mancanza di sanzioni e dalla difesa di interessi costituiti da parte di lobby che hanno quasi sempre la meglio sugli interessi generali. Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Niente, volevo raccontare la mia storia. Io tengo conto che ho un contenzioso con lo Stato che dura dal 1996. E praticamente per una stupidaggine, penso che chi ha trascritto il mio codice di attività ha trascritto un altro codice, e praticamente io mi sono trovato ad avere un bar invece di essere un artigiano. Allora, Alessandro, dato che sentiamo male la sua telefonata, voglio salutare intanto Luca che ci ha scritto via SMS. Abbiamo deciso di chiamare da dove si trova. Luca, buongiorno. Salve, buongiorno, io la chiamo dall'Aquila. Dall'Aquila, allora resti là perché questa è una storia che da quel che ho capito è iniziata, che nessuno degli ospiti questa volta, perché ho fatto il riferimento a me, che nessuno degli ospiti che abbiamo qua era nemmeno nato. 9 in punto. Allora, riprendiamo da Luca, dall'Aquila, eccoci qua. Ci racconti questa storia brevemente, Luca, se riesce, grazie. Salve, buongiorno. Prego. Brevemente, anche perché le dico questo, l'esproprio che ha subito la famiglia di mia moglie in realtà è iniziato nei confronti del bisnonno di mia moglie, che è morto. Poi è passata la causa, è stata riassunta dal nonno, poi è passata ai suoi figli, di cui uno è morto, e è passata ai cugini di mia moglie. Quindi ci sono volute 4 generazioni e 71 anni di giudizio. Ma, mi scusi, per ottenere un indennizzo cosa? Un indennizzo, sì, l'indennizzo per un esproprio subito dal bisnonno di mia moglie. Dal bisnonno di sua moglie, insomma, sì. Ma mi scusi Luca, ma non avete pensato a lasciarla in eredità ai vostri figli, insomma, scusi, a questo punto va. Sì. Cioè, le tradizioni familiari vanno rispettate, insomma, in qualche modo. No? Mi creda, il sospetto forte è che poteva rischiare mia figlia. Di subentrare questo. Ecco. Io ho 43 anni, quindi. Vabbè, insomma, per fortuna si è chiusa e avete avuto ragione alla fine. Sì. Perfetto, l'indennizzo l'avete ottenuto. Allora, sentiamo anche Alessandro da Roma, altra storia che stavamo ascoltando, però la devo bacchettare, Alessandro, perché ha tenuto il viva voce prima, è per questo che la sentiamo così male. Prego, buongiorno. Sì, ero in macchina. Eccoci. Comunque spiegavo velocemente che ho un contenzioso dal 1996, perché quando hanno trascritto il mio codice di attività mi hanno messo un bar invece di essere un artigiano e quindi mi hanno chiesto una cifra pazzesca perché secondo loro i studi di settore erano diversi da quelli che io avevo. E ancora la situazione non si è chiusa. Cioè lei avrà, immagino, portato delle pezze d'appoggio nelle quali gli dice: guardate che non sono un barista, sì, sì, sì, sono un artigiano, che cosa sì, fa sì, lei di mestiere? Io ho vinto la prima causa. Lei cosa fa di mestiere, Alessandro? Io sono un orafo. Un orafo, perfetto. Passa sì, come lei bar. Immagini che io adesso sto facendo tutto quanto per la mia attività in questo paese e me ne vado da questo paese. Immagini lei come sono contento dove di se ne va? Dove se ne va? Guarda, io faccio un passaggio in Danimarca perché ho vissuto quando ero più piccolo lì da quelle parti e poi me ne vado in un altro paese. Credevo... Ma me ne vado, lo sa perché? Mi dica. Perché rischio che questa storia qui che mi stanno facendo, che ancora non riesco a chiudere, mi mangiano anche l'ultima cosa che ho, la casa. Ha capito? E lei dice, e quindi giustamente, ma che ci sto a fare? Che ci sto a fare? Che ci sto a fare? Che ci sto a fare? Allora, le chiedo una risposta breve da Vigo, perché poi De Nicola ci deve lasciare, vorrei fargli fare una sorta di chiusura. Allora, vede però che c'è qualcosa nei racconti di questi ascoltatori, anche in quello che mi scrive su Twitter Carlo Alberini, mi dice: i pagamenti a 60 giorni sono disattesi nei bandi per gli appalti, le pubbliche amministrazioni scrivono che non potranno rispettare la legge e quindi le rispondo in qualche modo chiudendo dicendo lo Stato è diverso dai cittadini. Ora possiamo intenderci sulla definizione di Stato, no? Naturalmente, nel senso che è come dice lei, tecnicamente è quello, quando si parla di Stato così nel linguaggio comune si intendono naturalmente le pubbliche amministrazioni, alcune istituzioni eccetera eccetera, insomma tendiamo a non intendere noi cittadini, quindi inteso in questo linguaggio comune c'è qualcosa da questo punto di vista, da Vigo? Ma c'è moltissimo che non funziona, però se vogliamo cercare di porre rimedio a questo bisogna prima di tutto individuarne le cause, perché altrimenti c'è un generico malumore e il più delle volte peraltro giustificato, anche se poi ci sarebbe molto da dire. Certo che ci sono molte persone che sono in causa col fisco o comunque che hanno problemi avendo ragione, ma questo è un paese in cui l'83% delle società di capitali dichiarano un reddito inferiore ai 10.000 euro quando non è in perdita. Una vergogna, e non adesso che c'è la crisi, da sempre. Ma comunque torniamo al discorso. Vede, il professor De Nicola fa un ragionamento che in sintesi è questo: aumentiamo l'offerta di giustizia, no? È la strada che si è percorsa vanamente da 40 anni, è stato ottenuto molto, è stata raddoppiata o forse in alcuni settori triplicata la produttività. Quando io mi confronto con i colleghi stranieri e sentono i nostri carichi di lavoro, chiedono sempre agli interpreti di ritradurre perché pensano di avere capito male, perché non possono credere che lavoriamo tanto così. Le fornisco qualche dato per darle un'idea: la Corte Suprema di Cassazione italiana fa 100.000 processi l'anno, la Corte Suprema di Cassazione francese ne fa 1.000, la Corte Suprema degli Stati Uniti fa 80 processi l'anno con 300 milioni di abitanti. Allora, evidentemente c'è qualcosa di anomalo in Italia nel numero dei processi. Non è che possiamo risolverlo aumentando ulteriormente il numero dei processi o facendone di più. Tra l'altro, in base ai dati della Commissione europea per l'efficienza della giustizia e del Consiglio d'Europa, i magistrati italiani sono quelli che fra i 47 stati del Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione molto più ampia dell'Unione europea, lavorano di più. Allora, anche qui, non è vero che non ci sono procedimenti disciplinari, ce ne sono tantissimi, dice che il 98% superano la valutazione di professionalità, ma ci mancherebbe. Intanto il personale è fortemente selezionato. Sì. Ma poi, guardi, facciamo un confronto. Noi abbiamo una esigenza obiettiva che è quella di tutelare l'indipendenza individuale senza il quale... Mi scusi Davigo, la interrompo e poi la faccio concludere, però su questa sua prima parte della risposta, dato che appunto De Nicola ci deve lasciare, gli chiedo in un minuto di controrispondere a Davigo su questo tema qua, insomma. Beh, io dico che bisogna migliorare l'offerta di giustizia, penso peraltro la magistratura in genere fosse d'accordo sull'accorpamento dei tribunali, questo è un tipico esempio di come si può migliorare una giustizia, perché i tribunali piccoli sono inefficienti, mentre i tribunali di una certa dimensione sono più efficienti perché hanno ovvie economie di scala. Quindi ho fatto questo esempio, ma tutti gli altri esempi sono nel senso di migliorare l'offerta di giustizia. Poi ovviamente l'Italia è un paese in cui le cause sono troppe, perciò il fatto che ci siano 100.000 cause in Cassazione è un non senso. In Cassazione bisognerebbe arrivare, i filtri che sono stati appena introdotti probabilmente non sono sufficienti, i filtri dovrebbero probabilmente essere anche per molte delle cause di appello. Bisognerebbe dare la possibilità di riunire le cosiddette cause seriali, che sono cause che hanno tutte lo stesso contenuto, fatte da le stesse persone contro gli stessi soggetti passivi, cioè i convenuti. Quindi io sono assolutamente d'accordo che c'è una irrazionalità anche nella gestione della domanda di giustizia. Quello che vorrei per l'appunto sottolineare è che la giustizia è un aspetto della vita umana e sociale che non sfugge alle regole degli altri aspetti della vita umana e sociale, e cioè risponde a degli incentivi. Allora, se nel sistema giustizia non ci sono incentivi al merito, non ci sono incentivi alla concorrenza, alla competitività, alla selezione e così via, e naturalmente ovvio c'è l'esame iniziale per diventare magistrati, però una volta fatto quello basta, uno entra un ragazzo a 28 anni diciamo sem el iudex semper iudex, e anche questo forse non è una cosa del tutto sensata. Quindi io assolutamente sono d'accordo che bisogna razionalizzare la domanda di giustizia, che è assurda, enorme e non risponde ai reali bisogni del paese, ma non bisogna farsi scudo di questo per ricordarsi che meccanismi di meritocrazia, efficienza, competitività, proprio perché le persone rispondono ad incentivi e se hanno gli incentivi sbagliati danno delle risposte sbagliate, sono necessarie anche nell'ordinamento giudiziario. Grazie De Nicola, buona giornata. Sentiamo Daniela da Padova, buongiorno. Buongiorno dottore. Io non lo sono, però insomma, diciamo, non si nega mai a nessuno. Prego. No, io sono un giudice tributario regionale. Noi nel 2009 abbiamo avuto l'incarico di gestire tutte quelle che erano le pratiche che erano rimaste in giacenza in centrale. Sono state suddivise fra le varie regioni. Tenga conto che appunto a noi sono arrivate pratiche che risalivano al 72, 73 e quant'altro, e abbiamo gestito circa 18.000 pratiche nel giro di 4 anni e solamente in 5 sezioni. Il problema è stato all'origine, nel senso della Commissione Centrale a Roma, che doveva essere eliminata fin dal 96 con la riforma, e invece è andata avanti, si è procrastinata fino praticamente al 2009. Questo mi spiace dirlo, ma siccome non c'era un tetto di pratiche che dovevano gestire a Roma, se la sono portata avanti, e se non ci fosse stata questa suddivisione fra le varie regioni, i fascicoli sarebbero arrivati fino al 2035. Quindi si renda conto di che cosa vuol dire. Questo perché, mi spiace dirlo, in commissione centrale avevano un fisso mensile, senza un tetto di nessun tipo dal punto di vista di gestione di pratiche, e quindi infatti dal 96 siamo arrivati al 2009, quando il governo è intervenuto e ha deciso che finalmente dovevano essere un attimo ridistribuite per dare un input diverso, cosa che è avvenuta, perché io per esempio domani... Lei dice avevano un fisso mensile, intende un fisso mensile di, non ho capito, di cause da smaltire, di contenzioso. No, fisso mensile economico. Ah, perfetto, benissimo, perché questo in questo modo lei mi rimane su quello che diceva De Nicola esattamente un attimo fa, e sul quale vorrei fare una domanda a Piercamillo Davigo, ma subito dopo la viabilità. 9 in punto. Allora, Piercamillo Davigo, sul tema che proponeva la sua collega e che proponeva De Nicola, ossia anche un sistema di incentivi, lei cosa dice? Ma guardi, i giudici tributari sono retribuiti in parte con uno stipendio fisso, che peraltro è ridicolo. Io faccio da 20 anni vicepresidente di commissione tributaria provinciale, lo stipendio fisso mensile di 192 euro al mese netti. Quindi, buono! Dopodiché c'è un compenso variabile che dipende dalle sentenze che si scrivono. Ovviamente, siccome non è che uno ne può scrivere quante gliene pare, perché tutti quanti fanno un altro lavoro, io arrivo a percepire, credo, poco meno di 500 euro al mese netti. Comunque, non è questo il punto. Io ho il terrore del cottimo nella giustizia, perché ottiene il risultato di mettere la gente a fare la caccia delle sentenze facili, lasciando lì quelle difficili, che qualcuno deve pur fare, no? Problema, perché dico che non funziona aumentare l'offerta di giustizia? Perché è 40 anni che ci proviamo. Noi da 40 anni abbiamo triplicato la produzione e non abbiamo risolto niente, perché è quadruplicata la domanda. Paradossalmente oggi i tribunali stanno in piedi grazie alla loro inefficienza, perché ci sono tantissime persone, milioni di persone, che hanno subito una lesione di un loro diritto e che lasciano perdere perché sanno che ci vogliono un sacco di anni. Se da domani con un colpo di bacchetta magica i processi durassero 6 mesi invece che 6 o 7 anni, si scaricherebbe una domanda di giustizia oggi non formalizzata in cause, che paralizzerebbe di nuovo i tribunali. Allora non si può fare nulla se non si comincia dalla domanda, a contenere la domanda. Io sono ben d'accordo con il professor De Nicola che ci vogliono gli incentivi e i disincentivi, ma ci vogliono anche per i soggetti. Guardi, le faccio un esempio del processo penale, che è la cosa di cui io mi occupo. In Francia solo il 40% delle sentenze di condanna appena da eseguire viene appellato, in Italia tutte. Perché? Perché in Francia la Corte d'Appello, su appello del solo imputato, può aumentare la pena, in Italia no. E allora uno perché non dovrebbe fare appello? Se è libero ritarda l'esecuzione della pena e non va in carcere, e magari arriva la prescrizione. Se è detenuto possono decorrere i termini di custodia, è chiaro che appellano tutti. Siccome la struttura è piramidale, un numero infinito di processi si scarica sulle corti d'appello, che non sono in grado di farvi fronte, non in tempi brevi, con il risultato di aumentare le prescrizioni, con il risultato di determinare ulteriori appelli. Allora, quanto ci vuole a dire, benissimo, da domani la corte d'appello può aumentare la pena, quindi fai l'appello, lo fai con rischio e pericolo? No, questi sono gli incentivi. Poi, come le dicevo, la questione della giustizia tributaria è del tutto particolare, perché sono giudici, per così dire, di complemento, cioè non c'è nessuno che lo fa di mestiere, perché essendo quelli trattamenti economici nessuno fa di mestiere il giudice tributario, sono tutte persone che fanno un altro lavoro oppure che sono pensionati e che poi fanno i giudici tributari come seconda attività. I magistrati ordinari sono ovviamente impegnati nel loro lavoro ordinario, poi fanno anche parte delle commissioni tributarie. L'ultimo concorso che c'è stato prevedeva soltanto magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e altri tipi di soggetti come gli avvocati dello Stato, comunque correlati a questo, per cambiare anche la composizione delle commissioni, perché probabilmente si riteneva da parte del Parlamento che un numero eccessivo di professionisti spostasse il punto di vista delle commissioni tributarie dal punto di vista dell'interesse non dei loro clienti, perché è chiaro che non possono fare i giudici nelle cause dei loro clienti, ma diciamo dal punto di vista dei contribuenti. Infatti il fisco ha percentuali di soccombenza molto elevate in commissione tributaria. Quindi non so se mi sono spiegato, la questione è che certo che si possono, io sono assolutamente favorevole per esempio alla chiusura dei tribunali piccoli, non peraltro perché non è possibile creare specializzazione nei tribunali piccoli, quindi la produttività è necessariamente bassa, uno deve saper fare tutto, impiega un sacco di tempo a fare qualunque cosa. Allora voglio sentire qualche altro ascoltatore a partire da Diana da Milano, buongiorno. Prego. Se ho capito bene, però il magistrato Davigo ha detto una cosa gravissima e con una certa leggerezza che purtroppo riscontro spesso nella categoria dei magistrati, anche nel momento in cui stanno giudicando. Ha detto che il magistrato per la maggior parte delle volte sa già subito, l'ha detto all'inizio della trasmissione, chi ha torto e chi ha ragione. Questo è gravissimo, perché il dibattimento allora a cosa serve? E io lo dico trovandomi in una situazione analoga in cui si è capito che il magistrato si è già fatto un'idea di che cosa sia successo indipendentemente dal dibattimento. Questa è una cosa, non scendo nella questione personale perché comunque posso dire che è un caso di aggressione a una donna, la donna sarei io, in cui il giudice ha già deciso che essendo io la querelante sono, diciamo, secondo lui alla fine ha già deciso che chi ha ragione è il querelato. Detto questo, e questo è grave, scusate l'agitazione, però il fatto è personale, quindi mi affanna. L'altra cosa è, i tribunali sono affollati, le cassazioni sono affollate, ma certo, ma chiediamoci perché il cittadino viene incoraggiato, perché in Italia il cittadino viene incoraggiato da tutti i soggetti deputati a mantenere la sicurezza e l'ordine, a ricorrere alla giustizia, perché la prima cosa che ci si sente dire quando si chiede aiuto o consiglio o un intervento da parte di una qualsiasi delle forze deputate alla mantenimento della sicurezza, dai vigili, voglio dire, alla polizia, arrivando fino ai carabinieri, è signora, faccia querela. Allora è chiaro che questo è quello che Allora Diana, però noi siamo praticamente in chiusura e a questo punto le devo far rispondere da Davigo, al quale posso però concedere solo tra i 30 e i 40 secondi. Dottor Davigo, prego. Sì, ma guardi, intanto bisogna distinguere tra processo civile e processo penale. Le posso dire questo, io ho fatto pochissimo giudice civile, ma mi rendevo conto quando cominciamo una causa civile. Sì, ma qua siamo nel penale, cioè il tema è i magistrati decidono prima. Mi riferivo alle cause civili quando dicevo che quasi sempre si sa. Certo, nel processo penale il giudice penale non sa niente, quindi non può farsi un'opinione prima. Può averne un'altra di opinione, cioè che statisticamente gli imputati per lo più sono colpevoli, e ci mancherebbe che andassero sempre a giudizio gli innocenti, no? Io ricordo un divertente presidente di sezione del Tribunale di Milano, oggi in pensione, che iniziava sempre i processi dicendo all'imputato: lei che cosa ha fatto? Se poi non diceva niente, gli rispondeva: non dica così, se l'hanno portata qui ci sarà una ragione. Ma comunque, al di là delle battute di spirito. Davigo, purtroppo, però, guardi, qua succede così: che ci troncano perché dobbiamo mandare la pubblicità e quindi la trasmissione è finita. Grazie a Laura Faggini in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Il Festival del Diritto da oggi a Piacenza. Buona giornata, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 4 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.